su 10, c'è qualcuno? Come vai tutti con questo mic? Diverso dall'altro che utilizzo normalmente. Ehi, a chi c'è? Buongiorno comunque, Eugenio, chi c'è oltre a te? Ehi, attenzione, 10, se qualcuno vuole entrare per far compagnia, se no fate quello che volete. Qua Roberto, dall'altra parte Eugenio, in quel di Porto Torres. Avanti Eugenio. Chiaro e tondo, dai. Che si dice a Porto Torres? Silenzio c'è oggi. Sì, ma dalla finestra il movimento vedi gente. Qua io adesso sono chiuso all'interno, dai, non ho neanche visto dalla finestra, perché sono in una strada un po' chiusa io, non è che vedo tanto movimento. Tu vivi in casa indipendente? E quindi volendo ti puoi fare anche qualcosa, tu dico puoi uscire, se c'è un terreno o qualcosa ti puoi fare anche cosa. Ah, c'è anche un'officinetta per farti le manutenzioni. Vabbè, veneziare ci vuole attrezzatura, uno spazio chiuso, se ne escono cagate, puoi essere bravo anche usando la pistola, però se non è l'ambiente idoneo ti esce tutto sporco. No, vabbè, dipende da che tipo di pistola, ma tu vabbè, c'è tutto un discorso sulle pistole, adesso ci sono quelle HVLP, si chiamano ad alta resa, diciamo, che tirano poca aria con poca pressione di aria, con 0,5 atmosfere di aria, ti fanno sulti molto ravvicinati, anziché sultare per dire a 30 cm, puoi sultare da 10-15 cm, perché ti concentra tutto il prodotto, non ha bisogno, non fa fumo, a basso fumo, dai. Per cui se c'è la mano con quelle lì ne consumi metà di vernice. L'ugello può essere anche, lo puoi usare anche da 1, dai, 1 e 2, dipende, 0,8, dipende da come vuoi fare la buccia. Ma non è quello, non è il problema la vaschetta, no? La vaschetta esisteva anche 50 anni fa, quella con la vaschetta sopra, oggi che si sta parlando quella caduta, normalmente noi utilizziamo sempre quelle, normalmente solo quelle, per dire 15 anni fa utilizzavi quelle in aspirazione, che ti rimaneva sempre un po' di prodotto, eccetera, non è quello il discorso, a caduta o aspirazione, il problema è il tipo di pistola, se c'è scritto HV e l'EP, quella con un fuglietto di aria spruzza, riesce a spruzzarti il materiale, mentre le altre, anche se sono caduta e non sono a HVLP, devi dare un po' di aria, se no non esci nulla, ti fa lo schizzetto. Ma la buccia d'arancio tutto dipende molte volte dalla diluizione del materiale. Te vedete, si può risolvere tranquillamente, se la superficie poi se lo carteggi con carta abrasiva con la più sottile possibile, per dire passi prima una 2000 e poi la rifinisci con la 3000 ad acqua e la buccia d'arancio si elimina e poi lo lucidi bene e viene un bel lavoro. Naturalmente devi stare attento, non è che ti muovi nella riga e nelle curve per dire dove c'è un bordo, così scopri e fai danno, leggero leggero, piano piano, e si può dare anche una, noi la chiamiamo la spia, si chiama, prendi un colore di una vernice proprio quasi diluita come il solvente, noi diamo una specie di nero, diamo sopra, se è un colore scuro va bene, non serve a niente, ma se devi dargli questa spia, gliela dai sopra, proprio una velatura tipo una spruzzatina, lo carteggi, quando elimini con la parte nera vuol dire che è lucidato bene, cioè levigato bene ed è liscio. Ma sa fare spessore, cioè devi dargli, soprattutto questo lo utilizziamo quando diamo il fondo, per dire il fondo isolante, non parlo per la vernice, non c'è bisogno perché già abbiamo esperienza, nel senso che il risciatore già sa come distendere bene la vernice, non c'è problema. Conta anche il trasparente, perché ci sono trasparenti di qualità che tirano bene, distendono bene, poi ci sono quelli economici che essiccano in fretta ed esce subito la buccia d'arancio, può essere bravo, però ti fa sempre lo stesso problema. Allora gli devi dare due o tre mani diverso, con diversa diluizione, ma noi utilizziamo materiali di qualità, per cui quel problema della buccia d'arancio ma rarissimo, proprio raro, ti può capitare se hai utilizzato per una giornata troppo calda e tu stai ancora utilizzando il catalizzatore, come si chiama, troppo accelerante, troppo rapido, per dire ti capita una giornata, per dire a gennaio, che ci sono 20 gradi e tu hai usato il catalizzatore rapido, molte volte può capitare che te la fa perché è troppo rapida l'essiccazione e non ha disteso, ma ci sono i catalizzatori con diverse gradazioni, medie, rapido, ultra rapido o lento, per cui in base alle temperature ti arrangi, ma stiamo parlando di professionisti, uno così che fa per hobbistica, tutte queste cose, tu usi la prima trasparente che gli occorre, però sono cose tutte risolvibilissime. Togliere la colatura, di lì devi stare molto attento che togli la buccia d'arancio. La buccia d'arancio, se tu riesci a tenere il movimento delle braccia uniforme, nel senso anziché girare come ti fate tutti a zigzag, inizi dalla parte alta a scendere piano piano, dandogli prima una velatura, parliamo del trasparente, tu stai parlando del trasparente o della vernice? Quanto che ugello stai utilizzando, ma scusa, adesso fai una domanda, parliamo del fondo, e a quanto lo levichi tu il fondo, che gradi di levigatura usi? Sì, ma se tu hai dato il fondo, vedi da quanto inizia a levigare, la 2,20, 3,20, fino a quando arrivi? Mi hai detto levichi il fondo a 1,200, cioè che fondo levichi a 1,200? Ma tu levichi solo con una grana di coso, il fondo sto parlando. Non è così, a parte che 1,200 non ne ho mai sentito, cioè è un'esagerazione di coso, perché te ti sembra liscio, però poi se lo guardi, non dico al microscopio, ma se lo guardi con la lente, allora il fondo noi lo levighiamo, ti spiego, ci sono le grane, tu quando hai dato bene il fondo di qualità, stiamo sempre parlando di quelli che difendono molto bene, prima di tutto si leviga secco, noi ad acqua non levighiamo da tanti anni perché è fuori legge, levighi a sgrossi a 2,20, rifinisci a 3,20 ad acqua, che corrisponde a un'auto 100 bagnata ad acqua, e dopo li passi lo scotch brite che è una spugnetta, finisci così e dai direttamente antisilicone e vernice. 1,200 non esiste, perché tu la cosa, a te ti sembra, dice, poi lo guardi contro luce e hai abbassato il coso e rimangono delle impurità, delle cose che non riesci a togliere. Tu quando vernici, diciamo dopo che hai dato il fondo, utilizzi una vernice monostrato o con doppio strato con trasparente? No, aspetta un attimino, ci sono le vernici doppio strato, vabbè, poi ci sono anche triplo strato, quattro strati, lasciamo perdere quelli, parliamo di uso normale, tutte le macchine da almeno una quindicina d'anni sono doppio strato, cioè hanno una base opaca e poi si dà il trasparente sopra, tu utilizzi direttamente a lucido diretto, cioè per dire della vernice finisce il lavoro o ci metti il trasparente sopra? perché voglio capire una cosa, che tipo di vernice stai utilizzando? Se ti esce la buccia d'arancio può essere dovuto, ma tu dimmi, fammi un esempio, che colore hai utilizzato, di che colore era? Aspetta un attimo, ma non è che a te il problema la buccia d'arancio te la fa sotto quando gli dai il coso, non riesco a capire che tipo di materiale, perché quelle, quando c'è un bianco doppio strato, per dire, deve essere un prodotto, noi li chiamiamo BSB, bagnato su bagnato si chiama, si dà una velatura e poi si dà il trasparente quando sta iniziando a seccare, però se tu gli hai dato troppe mani di base, la buccia d'arancio è sotto il trasparente, per cui non c'è niente da fare, anche se lo carticci. Buongiorno. Ciao Gio. Buongiorno. Sta ascoltando da un po', dai, ma tu, io ho visto che eravamo a Tetrici. Io ti do un consiglio, porta direttamente a Roberto e se vedi tu. Non stai a imparare, a fare, lui. Prima le capire, a cavare di via. No, ma è giusto che impari, no già. Ma parte a Toledo, buongiorno anche a te. Aspettate un attimo, avete parlato in due, avanti Antonello con buongiorno. E oggi la sera che sta parlando lui. Sono delle spurie dell'apparecchio, si stanno portando dentro dei segnali spuri, che probabilmente non è molto selettivo con l'apparecchio, lui ho fatto manuale. Di cosa stiamo parlando? Di che apparato stai parlando? Allora, loro ce l'ho anche io, ce l'ho 120 con trazione base, purtroppo sono apparati di vecchia generazione, non sono molto filtrati, piano piano vanno fuori sintonia perché hanno diverse conversioni, per dire uno che lavora sino a, io parlo di numeri così, sino a 10 MHz, l'altro c'è il sommatore che te lo porta di altri 5 e va a 15, e si sommano così, basta che ci sia una cosa in disaccordo, una di questi stadi, adesso è tutto digitale, PLL eccetera eccetera, quegli apparati della Ruiz, ti ripeto c'era anche uno, ho fatto scambio con Luca tanti anni fa, sono apparati di vecchia generazione, piano piano col tempo vanno fuori sintonia, fuori fase, basta che ci sia un trimmer che magari non sta più funzionando bene, c'hanno una marea di componenti, di lì non c'è niente da fare, purtroppo te lo tieni così, anche a me molte volte mi è capitato con apparecchi di vecchia concezione, purtroppo così, vanno bene per fare certe cose, ma se vuoi delle cose più efficaci devi andare su cose moderne, dai. Sono trasmodulazioni, si chiamano cose così, comunque, niente, sarebbe troppo complicato metterci mano, è preferibile lasciarlo così. Ok, c'era Eugenio, io adesso vorrei far parlare un attimino a Eugenio, scusa Antonello, che vi siete sovramodulati uno con l'altro, avanti Eugenio. Diciamo possiamo farle, ma preferisco non farlo, è una cosa molto, molto tossica, fiaggosa eccetera eccetera, proprio cose rarissime, dai, proprio per cose personali. No, quelli li aggiustiamo, noi non per dire, pochissimi le fanno le saldature della plastica, 90% della plastica noi abbiamo i cannelli ad aria a casa, con la bacchetta c'è scritto nella plastica il tipo di materiale che è polipropilene, policarbonato eccetera eccetera, ci sono decine e decine di tipi di plastiche, noi per ogni plastica abbiamo le bacchette e lo saldiamo, ricostruiamo paraurti, parafanghi, scocche eccetera, rarissimo che non riesci a saldarle, soprattutto è capitato sui Mercedes di certe classe, adesso mi ricordo la Fiat Barchetta, sono delle fusioni di miscugli di materiali plastici, per cui non salda, ci mette il materiale sopra e non riesce a saldarlo, infatti un paio di macchine non siamo in condizione di intervenire, lì devi fare altri tipi di lavoro, però la plastica 90% noi la saldiamo tutta, leggi cosa c'è scritto dietro, se c'è scritto PEP, PLP o PCE, ci sono una marea di codici. Ok, scusate il monopolio, dai, chi è che Antonello se vuoi riprendere? No, non è che non si trova, tutto si fa, sono andati sulla Luna, il problema è uno soltanto, tu c'hai una cosa che non stai nelle base questo. Sì, mio uguale al mio, dai, quello color legno, c'ha tre strumentini verdi a sinistra, il monocolo nel cambio canale a destra e poi tutti gli indicatori, cioè le regolazioni sotto. Il problema lo sai cos'è? Che non aveva la candela, cioè se tu trovi uno che te lo sistema, a parte ci vogliono tutti i parametri, le schede di coso, di, chiamiamole le schede di officina, schede di laboratorio con tutti i triverini, con tutti quei valori, devi regolare con le tensioni, con le frequenze, ci occorrerebbe un'attrezzatura fenomenale. E rifare una cosa del genere, ripartire da ogni scheda a metterci in mano, basta una resistenza variabile, un condensatore in pesa, assolutamente, poi cosa ti metti a cambiare tutti i componenti per essere sicuro? Ti costerebbe un'esorbità, cioè c'è gente, tantissima gente lo può fare, ma è già un problema, molte volte sul 440 qualcuno non ci mette la mano. Io ci avevo fatto un esempio, la ICOM, adesso non ho nuovo, l'ICR7000, un ricevitore abbastanza importante, ne avevo un altro, prima ha iniziato a dare dei problemi, stava diventando solo, alla fine l'ho mandato da Bianconi, anche lui ha detto guarda, non è che non si può riparare, non è conveniente, è preferibile trovarne uno, cambi direttamente la scheda, così ho fatto, però alla fine mi ha detto guarda c'è un'occasione, ti ritiro il tuo, e mi ha dato uno in scatola fiammante e non ho preso neanche tempo, perché anche lui che era, adesso non sta più lavorando, era il numero uno qua in Italia su questo tipo di apparati, ha detto lascia perdere, costerebbe troppo, non è, vero. È come che tu ti metti a riparare una macchina d'epoca, c'è un ammasso di ruggine, tutta fragile, tutta rugginosa, lo sconsiglio anche io, dico, preferirebbe trovare una buona base di partenza e poi si prosegue da quello. Ok, vediamo se Eugenio è rientrato, avanti Eugenio. Ah, già, in una cosa. Dimmi, hai notato la differenza di radio? Questo è un altro microfono che avevo fatto qualche anno fa delle regolazioni, questo è la Dunis, quello con l'equalizzatore, che l'avevo, ci avevo perso un po' di tempo, c'è differenza da quello di ieri, dal 60. No, è chiara, questa qui, la radio bella, chiara, presente, no? Non c'è niente da dire. Ma sì, io di ieri non mi ricordo bene, dovresti fare due passaggi per dirti la differenza, però questo è molto chiara, molto presente, tranquilla come radio. Va bene, no, pensavo come mai, siccome è rimasto un po' di tempo fermo, magari molte volte quando lo metti nell'armadio tocchi qualche, siccome è molto sensibile l'equalizzatore, se tu vedi come è equalizzato, uno che capisce un po' di coso, di equalizzatore, dice ma questo cacchio come mai è equalizzato così, perché c'è una logica, contrologica diciamo, questo equalizzatore, perché devi esaltare tanto una parte e abbassare, per dire, questo c'ha quante bande, 4 bande, i 2000 è al massimo, il 1000 è quasi al massimo, il 5,40 e il 2,70 sono quasi meno 12 dB di equalizzazione, sono valori altissimi, infatti ho detto buh. Interessante che vada bene, magari la regolazione con il microfono è così, tanto non è bene, chi te ne va a te? Quell'apparecchio piaceva anche a me, infatti stavo cercando di accaparrarmelo, da internet, vabbè, ho ordinato a Claudio, sono stato fino a mezzanotte giocando là perché Claudio le piaceva troppo, poi io sono riuscito a attaccarlo e l'ho rinunciato io, là l'ho dato a lui e poi lui l'ha dato a Marco Scurto, mi pare, insomma ha fatto un giro. Oh Antone, ma cos'è, che modello c'è tu del Ruiz? Io ho il 625, te lo descrivo come è fatto. A sinistra in alto ci sono tre strumenti verdi, poi ci sono sotto in basso 5 manopoline di regolazione, RF gain, Mickey gain, eccetera, eccetera. Poi al centro c'è l'indicatore digitale del numero del canale, il manopolone e tre pulsantini rettangolari bianchi a destra. Sì, lo sto guardando, c'ha dei tasti più, è molto simile al mio, tu i tastini bianchi ce li hai a sinistra, io ce li ho a destra, e c'hai delle manopoline in più, ma cosa c'è in più? Aspetta, gli strumenti sono uguali, è tutto preciso, cambia soltanto, tu c'hai 1, 2, 3, ma te ne hai 7 di manopoline, di cosa sotto? Tu c'hai in più l'SSB, aspetta, ce l'ha questo SSB, non l'ho manco visto. No, io il microfono ce l'ho, il microfono originale, come si chiama? No, questo non ce l'ha la SSD, quello che c'ha la banda della SSD è coso, il... aspetta, ma... calibrazione, no, forse c'ha il... No, non ce l'ha la cosa, la banda laterale, il patch ce l'ha, il patch è quello, esteticamente è tutto in alluminio, sembra un amplificatore di casa, c'ha lo stesso tre strumenti, modulometro, wattmetro, rosmetro, tutto incorporato, è molto simile al Ruiz, Quello che c'è molto bene del radio, il Pace c'ha una radio spettacolare, il ricettore è una gaggata molto rumoroso, perché quello lì anche se, deve, se c'è un segnale forte, quando attacca Claudio devo mettere le freghe in tutto chiuso, se no non diventa muto, non ha i filtri in ingresso, sono apparecchi, forse che sia ancora quartato il tuo eroe, si qua c'è quarti all'interno, controllo. Sì, sì, no, sono ottimi apparati, poi sono americani. Oggi stavo dicendo, scusa. Ha pensato che non parla fa come porti il pezzo, che cazzo l'amore. Cos'è? Il parafago posteriore, il codino. E se c'è quello di Claudio, ho fatto da Claudio il mio numero e basta, no, il radio non ne do di questa cosa, non mi piace. E me lo mandi via WhatsApp. E certo, ci mancherebbe. Ok, Antonio, ma tu cosa hai fatto, quanto cosa stai utilizzando? No, no, sono questi nuovi, sono eccezionali. Guarda, io le stavo parlando ieri proprio, c'era una discussione. Io ho un Inter che è Multicom, che è una radio eccezionale di ricezione, guarda, è superiore al 140, non al 440. Cioè, silenzioso, non prende sblatter, niente, era una radio eccezionale. L'unica cosa che in trasmissione sono quegli apparati di nuova generazione, super chiusi, eccetera. Quello c'ha una marea di funzioni, non gli manca niente. Questo baracchino è grande come un 440, è un po' più basso ma c'ha un'estetica spettacolare e in più lo puoi usare tipo sintonia continua, perché prima di accendere tocchi due tasti e diventa da 25 a 30 mi sembra che va, ma ti ripeto, ha una ricezione che neanche il 140 li fa 10 a 0 al 140, è quasi come il 440 come ricezione, però l'unico problema è che non spinge di modulazione, devi metterci un microfono, ho provato con un paio di microfoni, tranne che col tunnel non ho provato, ho messo uno di, cos'è questo? Non mi ricordo come si chiama, l'MS100, con quello un po' spinge, ma devi mettere tutto al massimo per avere un po' di qualità, ma non è un granché, ripeto, solo un'ottima radio come ricezione, però queste nuova generazione sono tutti filtrati, li puoi mettere un kilowatt sotto l'antenna e non satura. Sì, anche come estetica, ma non piace. Il Multicom? Sì, sono piatta come si può paragonare a parecchi picchiari. No, vabbè, stiamo parlando di cose diverse, certo, se lo metti vicino a un Pace e a un Royce sono due cose diverse, come che tu c'hai un amplificatore Marat e poi lo guardi adesso con un Kenwood di quelli lì e sono tutte cose diverse. Però ti posso dire, tu l'hai visto in figura il Multicom già. Cosa? Sì, non era quello che aveva avuto problemi col figlio, che era minorenne, non so cosa. No, ma siccome ne ho due di Inter che sono simili, cioè se tu guardi l'altro, quello che c'ha l'Eco, Roger Bip, eccetera eccetera, che c'ha l'altoparlante davanti, quello è l'unica cosa è bello che spinge di più di quello lì, però non ce lo metto neanche lì, questo è proprio probabilmente uno degli ultimi apparati, parliamo di questi baracchini base, forse è l'ultimo che hanno fatto di base di un certo livello, e poi c'era un superstar, non mi ricordo come si chiama, di base, più bello di questo, che c'aveva il coso digitale, questo era cristalli liquidi, è un apparato diciamo di nuova generazione, l'hanno fatto negli anni 2000, non è roba veccia veccia. Cos'è Eugenio? Io sto parlando Antonello Barracuda da Ussi. Lasciate oggi, l'hai ascoltato? Guarda, sta arrivando 9 più 10, anche se mi ricordo arrivavi un po' più forte, Antonio, o sbaglio? Volete andare in FM? Andiamo in FM a fare una prova. Andiamo. ascoltati, buongiorno, ben ascoltati. Cosa hai detto oggi? Ho detto siete passati, se non torno lì. Siete passati, se non torno a uscire. Cosa hai detto? Ma solito si chiama. Ho detto siete passati qua, se non torno lì nell'altra in FM, capito? Ah, vabbè, penso che siamo tutti qua, non lo so. Claudio, io sono in AM con la Dunis. Deve essere per lo squelci, quello c'è di più, se no cazzo si sente bene. Perché non mi funziona lo squelci? Sì, vabbè, te l'hanno benissimo. Perché non funziona lo squelci, né? In FM, no, no, ma sì. Sì che funziona, certo che funziona, però devi abbassare, poi c'è qua in AM, non c'ho QRM, capito? Davvero, mi QRM a zero, zero completamente. Ciao Eugenio, ciao Antonello, ciao anche Roberto, ciao a te Gianni. Buongiorno a tutti, io sul tetto mi ho sistemato tutto, ritirato tutta la roba, smontata la direttiva, finalmente ce l'ho fatta. Pensavo che non faccia la roba, invece sono riuscito a abbassarla, piano piano l'ho smontata la 3-20. Pesantissima, mi ha staccato le braccia. Però ce l'ho fatta, dai. Ma quella che ti aveva tu, ancora ce l'hai fatta? Quella è un giocattolo, sto parlando della direttiva grande, della KW, quella da 8,50 m di radiale, pesantissima, mamma mia, meno male sono riuscito a, piano piano a smontarla, adesso l'ho lasciata tutta piegata, messa una parte sul tetto, perché in mansarda manco ci sta, devo smontare tutti i radiali, che sono la, il più grande, quasi 9 metri, quindi devo lasciarla lì sul tetto, pure a tempo buono la smonto. No, sto dicendo, quella piccola, la mia, cosa la usate, perché frequenza? Quella per i 10 metri, è monobanda a 3 elementi per i 10 metri, quella l'ho smontata già da tempo, quando ho comprato quella grande, quella l'ho smontata e l'ho conservata, e ne ho antenne, la mansarda piena di antenne, di direttive, c'è quella 12 elementi per le V, 17 elementi per le U, e sono tutte mansarde. Però il lavoro che ho fatto oggi è strepitoso, almeno sono in sicurezza, a posto, adesso può fare quello che vuole, c'è solo la 5 elementi dei 50 mega, dei 6 metri, e basta, sopra il sistema, ancora sotto rotore, quella però funziona perché non gli ha fatto niente il vento. Va bene, allora, Antonello, fammi sentire qua la modulazione in AM, vediamo. Qua va meglio anche se c'hai un leggero eco, quindi la modulazione rimane più forte, mentre invece in FM con l'eco non va bene, disperde troppo, capito? Avanti già. Il mio non va bene. Sì, ma tu ce l'hai già più forte in AM rispetto a lui come modulazione, quindi è chiaro che in FM disperde un po', però è molto più forte la tua rispetto alla sua anche con l'eco, capito? Io ti ho sempre ascoltato da quella posizione lì, dalla prima posizione dove sei adesso, io ti ho sempre ascoltato benissimo, sei più alto di Gianni, vabbè, noi siamo più vicini, però sei oltre il 9,20, capito? Vai benissimo Antonio, non c'è problema, penso anche Gianni ti ascolti bene. Ho capito Antonio che non sei più su in alto, sei sceso giù all'origine, ho capito, però il tuo segnale, non pensare che da me abbia cambiato molto, è sempre quello, oltre 9,20. Non è per quello che dobbiamo fare noi, siamo rimasti quattro gatti, va bene, è bello che adesso ci stiamo sentendo tutti i giorni, c'è sempre queste due chiacchiere, tanto mi sa che ci toccherà a lungo questa situazione, perciò va bene, l'importante è ascoltarsi, va bene, cosa hai detto già? Speriamo che non duri a lungo là, speriamo di ascoltarci tutti i giorni ma che non duri a lungo la situazione perché sta non è peggiorata. Oggi c'era, praticamente hanno trasportato la Madonna delle Grazie e hanno fatto la processione, dai, per chiedere, diciamo, di far smettere questa situazione che abbiamo. Processione, la processione è fatta, non vuole nessuno. Gianni, non so se hai ascoltato il Presidente del Consiglio ieri. Allora, se al 15 di aprile, questa pandemia non smette, si chiude tutto. Sai cosa vuol dire che si chiude tutto? Solo l'esercito, noi dobbiamo stare barricati dentro casa, solo l'esercito. Arriverà l'esercito a Fiumi, un mare di esercito, dove ti portano a casa i beni di prima necessità. E boh, hai capito cosa sta succedendo? Noi dobbiamo sperare che entro il 15 aprile questa pandemia smetta, perché altrimenti siamo in galera, cioè finito tutto, si chiude tutto, si ferma l'Italia, solo l'esercito può uscire, ok, e portarti i beni di prima necessità a casa e boh, e basta. Questo è quello che ha detto il Presidente del Consiglio ieri. A dire al Presidente del Consiglio quello che ti dico io oggi, gli faccio la cagata. Ma di più, ha fatto la più grande la cagata. Prima farsi spiegare le cose da quelli che ne sanno, dai virologi e quelli che studiano le epidemie da anni. Deve fare il tampone a tutta la popolazione, quelli che sono infetti li tieni chiusi. Non puoi tenere chiuse le persone e poi magari per prendere il pane e contagi 10.000 persone, è tutta una cosa esponenziale. Devi fare i tamponi come stanno facendo in Giappone, la gente sta uscendo in Giappone e in Corea. L'unico sistema è quello lì, fare i tamponi, si usa una secchetta anche di quelle del gelato, ci vogliono i reagenti, il problema è che in Italia ci sono pochi reagenti, li fai questo controllo qua, un attimino lo metti in bocca, dopodiché fai subito l'analisi del coso, in 2 minuti ti dicono se sei positivo o negativo, se sei positivo vai in quarantena, li metti in punti strategici, controllati, che non ti puoi muovere manco a prendere aria, così funziona se vuoi eliminare completamente il problema. Guardate il film, quello vabbè, un film virus letale, ed è il sistema, l'unica cosa efficace, è inutile che ti fanno uscire a prendere il pane, io o tu o chi per me, siamo infetti e contagiamo tutto il mondo, senza saperlo, perché sembriamo sani. Qualcuno lo sembrerà è vero essere tamponato, aia? Tamponato, qui te vecchiani, buongiorno. Allora Roberto, mi sono spiegato, se entro il 15 aprile questa pandemia non smette, non c'è manco pane, tu non puoi uscire manco a prendere il pane, non esce più nessuno di casa, l'esercito te lo porta il pane, hai capito? Non si può uscire, assolutamente, finisce tutto, si ferma tutto, non c'è nessuna restrizione, neanche con i permessi, non puoi uscire più di casa, ci sarà l'esercito in tutta la città che servirà i beni di prima necessità, questo è stato detto, io spero che non succeda. Ciao Anto, buongiorno. Buongiorno a tutti, vi ascoltavo con interesse, niente dai, sono qua in ascolto, è che quando hai parlato di tamponare, boh, mi ha sollecitato la cosa. Ma tu devi fare vedere, cosa fa vedendo l'altro oggi? Lo so Anto, lo so, è bello, qualcuno le piace essere tamponato, però a me no. Quindi non c'è problema. Ok, faccio girare. Eugenio, riprendi cosa stavi dicendo. Eugenio! Se va a vedere Nato Antonio, va un attimo. Tu, Gianni, riprendi. E vabbè, speriamo che ci sia qualche cosa, dai. Che la Madonna, che qualsiasi persona può fare la faccia sparire questa pandemia. Anche se no, Gianni muove. Claudio, tu dico Claudio, sì, sì. E forse al telefono. Il discorso, se ti chiudono dentro casa, Gianni o chi sta ascoltando adesso, non risolvono il problema lo risolvi se tu sei infetto e vieni certificato che sei infetto, tu adesso ti tengono dentro casa tua, a te, a me o a chi per me, io sono già infetto, rimango a casa infetto tutta la famiglia, fino a quando uno non si ammala, vengono, ti prendono e ti portano in ospedale, non è più semplice controllare tutti a tappeto, chiami l'esercito, tutto quello che ti piace e mi fai i controlli a tappeto, in ogni nucleo familiare entri e mi fai il controllo a tappeto, così si risolve il problema. Dopodiché se tu sei malato ti metto nei lazaretti, ti pongo a San Sebastiano, ce ne posti dove mettere, ti blocco di lì e circoscrivo l'epidemia, non c'è altro sistema, è inutile che fai il 15 perché il 15 non batterà, poi il 30 maggio, giugno, luglio, agosto rimarremo sempre così fino a quando non morire tutti, così è l'unica soluzione. Infatti i tamponi vorrebbero fatti a tempo. Diciamo che adesso è una questione di fortuna, perché devi andare per forza a fare la spesa. Se nel campo c'è qualcuno che infetto, che ti contagia, te lo porti in famiglia, è tutto un giro. Poi bisogna vedere sempre che anche le relazioni rispettino le regole, perché se disturbi una persona di una colazione e può contagiare gli altri, capito? Se no, se è positivo, e può venire qua e contagiare gli altri, è un giro che non finirà mai. Ok, altro che volevo salutare Antonio e Grode, avanti Antonio. Ciao, vabbè, tutto a posto. L'altro giorno sei entrato e sei fuggito, manco il tempo di salutarti Antonio. Ti chiedo scusa, una bassa c'hai? Ma non la mettiamo durando Antonio, me lo dico. Ora a casa, soltanto che c'è un antennino da macchina, quindi è per quello che sto uscendo così. Sì, ma lo so, c'è a casa tua, ti sento o no, il radio sei molto basso. No, ma anche zona 6. Dove è Rockefeller? In? Via Rockefeller, bassa però. Dove di prima, dai. No, ma forse c'è con l'antennina Daniele. Sì, sono con un giocattolo, con un pezzo di carta stagnola, figurati. E poi sto trasmettendo con un 294 della Inuit vecchio. Aspetta, avete parlato di due, un attimo, Ruggero, ripeti Anto cos'era? Che sto modulando con un 294 della Inuit e un'antenna di cartone, capito? Ma tu non ci avevi la matta qua sopra? Appa, però non ho più reinstallato tutto, capito? Quella stazione non ce l'ho ancora giù. Perché tu c'avevi anche belli apparati, mi ricordo, a parte che ti avevi preso anche la patente, quello è un altro discorso. Però c'avevi qualcosa di discreto, ok. Aspetta che Eugenio stava dicendo qualcosa, Eugenio dimmi. Aspetta, controllo, riprenditela già o Claudio o chi per lui, o se c'è Antonio Barracuda, uno dei due. Ciao Claudino! Uia, uia, vabbè. Ma a chi ho domandato a me non mi telefono? Turbo da Roberto oggi. E qua Roberto te lo da lui, non te lo volare io. Non ho capito. Avanti, Antonello. Problemi, non è successo niente, allora gli ho detto a Eugenio io, siccome a me dare il numero di telefono in radio non mi piace, gli ho detto se c'hai il numero di Claudio chiama a Claudio e te lo fai dare da lui. Dopodiché ci siamo arrangiati, siccome abbiamo anche l'amicizia su Facebook, mi ha mandato il numero suo e io gli ho mandato il suo. Per cui Eugenio, mi raccomando, tutto tranquillo, e Claudio non è successo niente, ok? Sì, io non ci scherzo, io non c'è problema, io l'avrei mandato lo stesso, capito? Allora, essendoci tu qua, per quello che gli ho detto, ti preoccupare, capito Dio, il numero di telefono non glielo andate mai, ragazzi, va bene, cosa stavo dicendo? Vabbè, va, infatti mi poteva chiamare, perché per darglielo io devo segnarmelo un pezzo di carta e poi mandarglielo, così non me lo ricordo, capito? Tutto a posto, oggi mi raccomando, dai, ok. C'era poco fa Barracuda, non so se ci ha mangiato qualche squalo, ci sarà come? Sì, avremo un numero di telefono, dai, come non è successo niente, come non detto e come non è successo niente. Ok, Antonio Grode, facci ridere, dai, raccontaci qualcosa, che ogni tanto ti vedo su Facebook e mi vai a bisciare il riso. Tu, chi è fuggito, dai, Antonio, riprenditela la tua. Mi Antonio, scusa, Gianni. Io l'ho salutato, no, non ho risposto, deve essere sparito. Entra, poi se ne va. Aspetta un attimino, ciao Gianni, no, è che sto mettendo mi apposta la stanza, scusami se non ti ho salutato, riprendi Benito. Sì, che si può riparare, sembra una plastica cosa di quelle che utilizziamo sempre, sembra polipropilene quando andava così, ma bisogna avere, comunque non c'è problema, ma solo riparare la camminicciare lui. Ma cos'è un rosso metallizzato? No, va vabbè, per i colori già abbiamo lo spettrofotometro, già non ci, già qualunque colore del mondo possiamo fare. Siamo benito già. Benito, era la volta, non sono scomparso. Lo rilancia che non l'hanno preso. Era la volta. Ho sentito io. Va bene, va bene. Io non lo so, fa vedere di questa cosa, ma prendendo le balle su coronavirus, fuori e dentro casa. Chi è? Non è, tu sì. Sì, magari, ma sei andato subito. Sì, l'altro è mio cugino, l'altro è da un'altra parte, dai. Siamo vicini per un certo punto in linea d'aria, siamo in ultimi rapporti, non c'è problema. Però lui è dall'altra parte di dove sto io. Eia. Poco più mandroni rispetto a Roberto, cugino. Una minchia la mattina alla sera. E vabbè, dai, ognuno fa quello che può, dai. Lui si diverte, dai, è sempre in giro per il mondo, cacchio, già se ne fa poche differenze. Però diciamo non lo invidio. È da solo lui, partecipezzi, fa bene, dai, vive da solo con la mamma. Purtroppo ha avuto una situazione matrimoniale bruttina e lui si diverte in giro, è sempre in giro per il mondo. È tornato l'altro giorno, adesso è in quarantena lui perché era a Sharm el Sheikh, quando 10 giorni fa è rientrato. E che è il tuo amico? Salvatore, boh. Sicuro che si chiama, li conosco tutti, Salvatore. Ah sì, ho capito, sì sì, non l'ho più visto con ragazzi. Ehi, non c'è problema, dai. Ok, non diciamo troppi particolari, però chi è in radio meglio non dirne, che c'è tanta gente cattiva che ascolta, e qui chiudo il discorso. E vediamo un po' chi è rimasto qua, Barracuda ci sei ancora, nuda, avanti è il Grobbe, facci sognare, che tabù, no? Che scompaiono tutti, Gianni e Franco, chi sei? Claudio, tu sei rimasto? Sì, sì, io sono qua, non c'è problema, adesso mi allontano un minuto, devo svuotare l'aspirapolvere, se è l'aspirapolvere, ma sono ancora. Che prendi doppio? Io la dovevo passare, ma ne ho buttato una. Mi sono pulito tutte le gabbie stamattina e mi sono stancata perché sono stato troppo in piedi e un po' mi fa male la gamba. Adesso mi sono di nuovo coricato per riposare perché non devo strapazzare. No, no, no, già io mi sono ripreso, dai, con questa cura che ho fatto, infatti ero sul tetto, mi ho sistemato tutte le antenne, mi sono sceso, intanto loro stavano facendo pulizia qua perché stanno igienizzando tutti i giorni, e quindi adesso ho svolto l'aspirapolvere, poi che adesso è già l'una meno un quarto, ragazzi, dai, io vi lascio, me ne passo dall'altra parte e poi ci sentiamo stasera, dai, buon pranzo a tutti, buon pranzo a tutti. Gianni, Roberto, Antonello, Eugenio, Antonio, un saluto circolare a tutti, anche a Benito se mi ascolta, vai. Ci sentiamo stasera, passo in quel Rix, ciao. Ciao, ciao, ciao, buona carica anche a te, quando la ciao Claudio, buon tutto, e anche io adesso stacco, se me ne danno da mangiare vado a mangiarmi qualcosa, dai. Ci sentiamo magari più tardi, ciao ciao a tutti, Gianni, Claudio, Benito che non ho sentito, chi c'è? Barracuda, Antonio Aldrode, Eugenio e tutti gli amici eventuali in ascolto, QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao, e buona carica anche a te, dai, ci sentiamo sulla scena, dai. Ci speriamo che ci siano delle belle notizie. Avanti Antonello. Dai. Poi mi sento tardi così Luca. Sempre anche più dai. No, se vuoi stavo ascoltando una marina. Mi sono addormentato. Vabbè. Ci sai, ti ha fatto schifo. E cos'era? Noioso? No, era carino. Praticamente questi ragazzi, tre ragazzi, no? Hanno avuto un incidente e poi si sono trasformati in zombie. Ma ne vuoi vedere di quel film? A casa c'è un pieno. Praticamente ne ho di questi ragazzi che fanno la festa e giocano con la tavola, ne chiamano gli spiriti, roba del genere, quegli spiriti li fanno gli spiriti, guarda. c'è da cagarsi solo. Come posso immaginare? Qua già, il prato è pronto, dai. Ma fa un po', non fa. Fate anche la torta oggi, no. Niente, dai, c'è, ci sentiamo stasera, vabbè. La ringrazio, c'è pandemia, va, io sono comandante di più, mamma mia. Sto fermo e sto mangiando di più. Con questo cacchio di coronavirus, si canto fine di tutti. E lascia una fucilata, buon pranzo già, stasera. Ciao, ciao, buon pranzo anche a te. Chi è rimasto su 10? Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.